Friuli nel mondo. Tarcento, perla del Friuli. 33esima trasmissione dedicata agli emigrati. Per giustificare l'attributo a Tarcento di perla d'una regione fra le più belle d'Italia, converrà salire alla trecentesca chiesetta di Sant'Eufemia di Segnacco, una sera di maggio, mentre il campaniletto a vela sollecita i fedeli alla funzione mariana. Da lassù, tutta la valle del Torre, difesa settentrione dalla compatta parete delle Prealpi, incisa dal bianco greto del fiume che le dà il nome, disseminata di chiese, di ville, di case tra macchie di ciliegi in fiore. Sotto il portichetto gotico di Sant'Eufemia, una lapide coi nomi dei caduti e dei dispersi nelle guerre, illuminati da una lampada perenne. Voci che riempiono la navata col corale mariano. Così nelle altre chiese all'intorno, mentre il crepuscolo incombe sulla conca del Torre. Ora di nostalgia per i vicini, per i lontani. Ora di pietà per quanti non sono ritornati al borgo natio. Ancora voci di campane alle quali si fondono spontanee preghiere alla Madonna. Le diffonde il vento nel raccolto silenzio della sera sopra i castagneti e i vigneti che rivestono i pendii. Le reca in ogni casolare, odoroso della cena recente. Il vento le porta da Sediris a Ciseris, da Zomeais a Stella, da Samardenchia a Coia, da Madonna da Prato a Colle Rumiz. Con gli ultimi voli delle rondini ritornate ai nidi, con i primi gorgheggi dei rosignoli sulle acace fiorite. Ma per meglio intendere l'elogio a Tarcento, converrà porre ascolto alla voce del fiume che convoglia le limpide linfe alla vicina città. Sulla sponda destra, all'altezza di Molinis, un battiferro. Il suo proprietario lo dice il più antico del Friuli. Vecchio, lì c'è il mo che spate fiar. Spate fiar, cara, il più vecchio del Friuli. Sono stato fin di mai anche il Bertoli che ha imparato il mestiere, che loro è anche grande fondaria a Udi. E voi lavorai so chi sempre? Sempre lavorai. E c'è fasiso, c'è strumenti fasiso. Massanghis, manaris, picons, palis, fiar di Guardenon, cortelacci di Beghiera. E dite che qui sono io 80 anni, se fasi a usare le mani. E io a battere la macchina a Uccia. I salverti te? Era vero, sì. Lavorai in cibo, sì? Cibo. Come un fantato? Finché si può. Finché si può. Si può in giù. E qualche tacciuto di vin? Qualche volta, quindi di che? Poco discosto, un vecchio mulino azionato da una ruota viscida di muschio. Vi si macina la dorata farina per cuocere la polenta. Consigliata con le trote che popolano il Torre proprio in quel tratto ricco di pastura. Ai lavatoi, negli abitati, donne chiacchierine e canterine. Ma ridaici a pantaccini su speranci di beben, se che stan si sgalandì. E più su, a monte di Ciseris, il rombo d'una cascata, la prima costruita in Friuli a scopo idroelettrico, che genera l'energia per la filatura di Bulfons. Precipita schiumeggiando nella stretta di Crosis, nome che richiama le croci indicatrici di sinistri toccati un tempo ai viandanti. Da Crosis scende a sera un fresco venticello, un aiarin che conforta la terra, fa fiorire le rose, accende una luce d'amore negli occhi di Mariute, come canta Guido Benedetti su musica dello Zardini. Mariute è l'unica figlia del poeta. Ecco, ella ora parla del padre. Ho sempre vivo il ricordo di mio padre. Medico aveva percorso tutte queste strade e i faticosi sentieri della montagna. Apprezzava, ammirava ed amava questa terra. Aveva un animo ed una cultura di umanista e alla fine della sua faticosa giornata si dilettava a scrivere versi in italiano e in friulano. Questa villotta dimostra la sua gentilezza d'animo e l'affetto, l'attaccamento per questo paese, tanto che profugo in Toscana in una poesia scriveva: «Cestenals come assidilis non si inchiate nessun luc, con chi arbui che anchenzi non si stialde nan cerfu». E scegliendo una similitudine, un'opera d'arte, scherzosamente concludeva: «Ho veduto il tor di Giotto, al parfaddo quandare. Ma che Dio mal perdoni, mi plaspui che li tarcin». Come non amare la perla del Friuli? Lungo la valle, quante frasche dove si trova il sapido nostrano di colline. Persino l'armonica e il liron ne salutano la vena frizzante sotto la pergola, mentre ai tavoli si prolungano le partite di briscola, ogni partita un litro, alla moda dei nonos, e le partite di morra che asciugano la gola. Morra! 3! Aperta, fermiamo, 3! 7! Aperta, anche tu! 2! Morra! Se vedeso? 4! 3! 7! 8! 9! 3! 6! 6! Ogni frasca superba del proprio vino. Su ogni botte il nome del produttore, magari segnato col gesso come usavano i nonos. C'è di più, e in senso più alto. A Coia, quei vignaioli sogliono offrire alla chiesa, per i bisogni del culto, i grappoli migliori, dai quali sarà spremuto il vino della Madonna, che sarà spillato l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata. Così a Ramaldolo, oasi del celebrato Verduzzo, che ha il profumo delle viole e il colore dell'ambra, dove l'offerta dei grappoli impegna la Vergine, nella tacita invocazione dei devoti, si intende, alla protezione delle vigne ricavate dai fianchi marnosi del Monte Bernadia, in vista del Cornappo, affluente del Torre, caro a Ippolito Nievo. Paese di tradizioni, radicati un humus di poesia, Tarcento. Anche perciò, perla del Friuli, terra d'incontro fra Celti del Nord e Latini del Sud. Un humus, meglio un sentimento, a cui non è forse estraneo il paesaggio plasticamente reso nel Chanta Tarcint. Siamo sul Cisceľat, sotto un rudere di castello feudale dominatore da 6 secoli dell'incantevole conca. Siamo nel luogo propizio per ammirare e penetrare la descrizione che ne fa il poeta. Là che il plan s'ingriste a onde, sot la stele e lung la tor, la fravits, pomars e rosis, sot un ciel simpri ridint, netis, blancis e graziosis, son mil chiasis, le tarcint. E per ascoltare il motivo che il maggior interprete dell'anima friulana, Arturo Zardini, dedica a Tarcento. Ma lassù, nella ricorrenza dell'Epifania, una fantastica accensione di fuochi pignarui che costellano alture e pianura di occhi rossastri. Una storia piena di luce e di allegria, come canta un altro poeta. Al centro il crepitio della fiamma accesa da un vecchio venerando. Lieto l'auspicio, il fumo piega a Oriente, annata abbondante di pane e di vino. Ora il momento delle danze. Il gruppo folcloristico di Tarcento raggiunge toccanti espressioni di ingenuità. Lo conferma il successo che gli hanno decretato Nizza, Agrigento e Roma in sede internazionale, che Parigi e altre città francesi gli riconosceranno certamente a fine mese in un raduno in cui Tarcento rappresenterà ufficialmente il folklore italiano. Dalla danza dei fiori alla furlana campestre, una serie di movenze aggraziate al bando ogni sensualità. C'è di ambar, si vale par balà, spiega il vecchio del Pignarul. Euritmia perfetta, costumi derivati da modelli autentici della Valle del Torre, motivi musicali antichi come le pietre dell'altare e del focolare. Thank you. nella festa e dopo la festa una serenità nei cuori. Ne è indice anche il premio Epifania, iniziato quest'anno dalla Protarcento, affiancata dal comune e da altri enti, destinato a persone che in campi diversi onorano il Friuli, che friulani si ispirano alla legge eterna e infallibile dell'amore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Tarcento, perla del Friuli, 33esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musiche di Arturo Zardini e di Luigi Garzoni, musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione il coro tarcentino diretto da Dino Sala, il gruppo folcloristico di Tarcento diretto da Vittorio Gritti, Maria Cossio Benedetti, gente di Segnacco e di Ciseris.